Ad alta voce. Peppe Servillo legge Le voci di Marrakesh di Elia Scanetti. Traduzione di Bruno Nacci. Visita nella Mellà. Il terzo mattino, appena fui solo, trovai la strada per la Mellà. Arrivai a un incrocio dove c'erano molti ebrei. Il traffico scorreva loro davanti e a un angolo girava. Vidi delle persone passare sotto una volta che sembrava incastrata in un muro e subito le seguii. Oltre quel muro e da esso circondata su tutti e quattro i lati si estendeva la Mellà, il quartiere ebraico. Mi trovai in un piccolo bazar all'aperto. Nei bassi stanzini vidi degli uomini accovacciati in mezzo alla loro merce. Alcuni che erano vestiti all'europea stavano seduti oppure in piedi. Per lo più portavano in testa i neri berrettini che qui servono agli ebrei per distinguersi, e moltissimi avevano la barba. Nelle prime botteghe che incontrai si vendevano stoffe. Un uomo misurava la seta con il cubito. Un altro, pensieroso e veloce, maneggiava la matita e faceva i conti. Anche le botteghe più fornite davano l'impressione di essere minuscole. Molte avevano dei visitatori. In uno di quegli stanzini, due uomini, molto grassi, erano stesi con indolenza attorno a un terzo uomo, magro, che era il proprietario, e sostenevano con lui una conversazione vivace ma piena di dignità. Camminavo più lentamente che potevo, osservando quei volti. La loro varietà era stupefacente. C'erano volti che in abiti diversi avrei preso per arabi. C'erano i vecchi ebrei luminosi di Rembrandt. C'erano preti cattolici, ipocritamente umili e silenziosi. C'erano gli eterni ebrei. Su tutta la figura era scritta la loro irrequietezza. C'erano francesi, spagnoli e russi coi capelli fulvi. Uno di questi veniva voglia di salutarlo come il patriarca Abramo. Stava parlando con condiscendenza a Napoleone e un sapientone esagitato che somigliava a Goebbels si inseriva nel discorso. Pensavo alla trasmigrazione delle anime. Forse, mi dicevo, l'anima di ogni uomo deve trasformarsi almeno una volta nell'anima di un ebreo. E ora sono tutte qui. Nessuna si ricorda che cosa è stata in precedenza, e anche quando i lineamenti tradiscono a tal punto la sua provenienza che io, uno straniero, la riconosco, ciascuno di questi uomini continua a credere fermamente di discendere in linea diretta dal popolo della Bibbia. Comunque, avevano tutti qualcosa in comune, e appena mi fui abituato alla grande varietà dei loro volti e delle loro espressioni, cercai di scoprire in che cosa realmente consistesse questo tratto comune. Avevano una speciale rapidità nell'alzare lo sguardo e nel farsi un'opinione sulla persona che camminava davanti a loro. Non una sola volta mi capitò di passare inosservato. Quando mi fermavo, è probabile che subodorassero in me il compratore e quindi mi scrutassero con speciale attenzione. Ma per lo più fui raggiunto dai loro sguardi rapidi e intelligenti molto prima che mi fermassi, e quegli sguardi mi raggiungevano anche se camminavo sull'altro lato della strada. Perfino in quei pochi tra loro che stavano distesi pigramente come gli arabi, lo sguardo non era mai pigro. Veniva, indagava con sicurezza e subito se ne andava. Potevano essere sguardi ostili, freddi, indifferenti, scostanti e infinitamente saggi. Mai, però, apparivano stupidi. Erano sguardi di uomini perennemente allerta, che non vogliono provocare l'ostilità che si attendono. Non un'ombra di sfida si scorgeva in quegli occhi, e invece una paura, tenuta saggiamente celata. Si direbbe che la dignità di questi uomini risieda nella loro circospezione. Poiché la bottega è aperta soltanto da un lato, essi non devono affatto preoccuparsi di ciò che accade alle loro spalle. La stessa gente nel vicolo si sente meno sicura. Mi accorsi ben presto che gli eterni ebrei, quelli tra loro che apparivano più irrequieti e dubbiosi, erano sempre degli ambulanti, gente che andava in giro portandosi appresso tutta la propria merce, con la quale doveva aprirsi un passaggio in mezzo alla folla, gente che non sapeva mai se qualcuno sarebbe saltato addosso alla loro misera proprietà, prendendoli alle spalle, da sinistra, da destra o da tutte le parti contemporaneamente. Chi aveva una bottega sua e in essa si fermava, aveva un'aria quasi tranquilla. Parecchi, invece, se ne stavano rannicchiati sul bordo della via e mettevano in vendita le loro minutaglie. Spesso si trattava di mucchietti incredibilmente miseri di frutta e di verdura. Sembrava che in realtà non avessero niente da vendere e che si accontentassero dei gesti dell'acquistare. Erano in molti, trascurati nell'aspetto, e io feci fatica ad abituarmi alla loro vista, ma in breve fui pronto a tutto e non rimasi particolarmente stupito quando vidi un vecchio malaticcio accovacciato per terra che metteva in vendita un unico limone raggrinzito. Camminavo ora in un vicolo che dal bazar dell'ingresso si inoltrava nella mellà. Era molto affollato. In mezzo agli uomini, numerosissimi, mi vennero incontro alcune donne senza velo. Una donna decrepita, completamente sfiorita, si trascinava verso di me. Sembrava il più vecchio esemplare della specie umana. I suoi occhi fissavano un punto lontano. Sembrava che vedesse con precisione dove voleva andare. Non si scansava per nessuno, e mentre gli altri dovevano descrivere delle curve per poter passare, intorno a lei c'era sempre spazio. Credo che gli altri la temessero. Camminava molto adagio e avrebbe avuto il tempo di maledire ogni singola creatura. Incuteva timore, e proprio questo, probabilmente, le dava la forza di camminare. Quando infine mi fu passata davanti, mi voltai e la seguii con lo sguardo. La vecchia sentì la mia occhiata, perché si girò indietro verso di me con la stessa lentezza con la quale camminava, e poi mi guardò dritto negli occhi. Me la svignai al più presto, e la mia reazione al suo sguardo fu talmente istintiva che solo in seguito mi resi conto che stavo camminando molto in fretta. Passai davanti a una sfilza di botteghe di barbieri. Alcuni parrucchieri giovani se ne stavano in ozio davanti alla porta. Di fronte, seduto per terra, un uomo metteva in vendita una cesta di cavallette arrostite. Pensai alla famosa piaga d'Egitto e mi stupii che anche gli ebrei mangiassero le cavallette. In uno stanzino parecchio più in su c'era un uomo accovacciato. Dai lineamenti e dal colore della pelle sembrava un negro. Portava il berrettino degli ebrei e vendeva carbone. Cataste di carbone lo circondavano da ogni lato. Pareva che nel carbone dovesse essere murato e fosse solo in attesa degli artigiani incaricati di portare a termine questo compito. Era a tal punto immobile e silenzioso che all'inizio non lo scorsi e mi colpì soltanto a causa dei suoi occhi che scintillavano in mezzo a tutto quel carbone. Accanto a lui un uomo cieco da un occhio vendeva della verdura. L'occhio dal quale non ci vedeva era mostruosamente gonfio e aveva un aspetto minaccioso. Egli stesso maneggiava con imbarazzo la sua verdura, la spostava con cautela da un lato e poi con la stessa cautela la rimetteva dove era prima. Un altro tipo era accovacciato per terra e aveva accanto a sé 5 o 6 pietre. Ne prese in mano una, la soppesò, la osservò e poi la tenne sollevata ancora un momento. La rimise di nuovo tra le altre e ripeté con quelle lo stesso gioco. Non mi guardò neanche una volta, benché io mi fossi fermato proprio davanti a lui. Fu l'unico di tutto il quartiere a non degnarmi di una sola occhiata. Le pietre che voleva vendere non gli davano pace, ed egli pareva interessato più ad esse che non ai loro compratori. Sentivo come tutto diventava più povero man mano che mi addentravo nella mellà. Mi ero lasciato alle spalle le belle stoffe e le sete. Nessuno aveva più l'aspetto ricco e principesco di Abramo. Il bazar vicino all'ingresso era stato una specie di quartiere di lusso, mentre qui all'interno si svolgeva la vita del popolo semplice. Mi trovavo adesso in una piccola piazza rettangolare, che mi apparve come il cuore della Mellà. Presso una fontana di forma allungata, sostavano uomini e donne confusi insieme. Le donne reggevano delle brocche che riempivano d'acqua. Anche gli uomini riempivano d'acqua le loro borracce di cuoio. Gli asini stavano accanto a loro e aspettavano di essere abbeverati. In mezzo alla piazza c'erano dei rosticcieri accovacciati. Alcuni arrostivano della carne, altri friggevano piccoli krafen. Avevano con sé la loro famiglia, le donne, i bambini. Era come se avessero trasferito la loro casa nella piazza e qui avessero deciso di vivere e di far da mangiare. Qua e là c'erano dei contadini in costume berbero, con in mano dei polli vivi. Li tenevano per le zampe, legate assieme, e la testa penzolava in basso. Ogni volta che si avvicinava una donna, essi le allungavano un pollo per farglielo palpare. La donna prendeva in mano la bestia, senza che il berbero la lasciasse o le cambiasse posizione. La donna schiacciava il pollo, lo pizzicava, lo afferrava nel punto più carnoso. Durante questo esame, nessuno diceva una parola, né lei né il berbero, e anche la bestia restava in silenzio. Quindi la donna la lasciava nella mano dell'uomo e andava dal contadino successivo, e la bestia tornava a penzolare. Nessuna donna comprava mai un pollo senza prima averne esaminati minuziosamente molti altri. Tutto intorno alla piazza c'erano le botteghe. In alcune lavoravano degli artigiani. Il loro martellare e il loro battere si distingueva nettamente tra il vociare chiassoso. In un angolo della piazza si erano radunati molti uomini che discutevano con foga. Io non capivo quello che dicevano, ma a giudicare dalle loro espressioni ne andava del destino del mondo. Erano tra loro di parere assai diverso e lottavano a colpi di argomentazioni. Mi parve che godessero nell'attaccarsi l'un l'altro. In mezzo alla piazza c'era un mendicante, un vecchio, il primo che vedevo qui. Non era un ebreo. Non appena ricevette una moneta, subito si girò verso uno dei piccoli krafen che friggevano vivacemente nella padella. C'erano molti avventori attorno al cuoco, e il vecchio mendicante dovette aspettare il suo turno, ma rimase paziente, benché il suo pressante desiderio fosse così prossimo all'esaudimento. Infine ricevette il suo krafen, ritornò in mezzo alla piazza e, spalancando la bocca, lo ingoiò in un boccone. Il suo appetito si allungava come una nube di piacere sopra la piazza. Nessuno gli badava, ma tutti aspiravano insieme a lui il profumo del suo piacere. Ed egli mi apparve molto importante per la vita e il benessere della piazza. Il suo monumento, un monumento al cibo. Non credo però di dovere a quest'uomo soltanto il senso che la piazza fosse sotto l'influsso di un felice incantesimo. Davvero in quel momento mi sembrò di essere altrove, di aver raggiunto la meta del mio viaggio. Da lì non volevo più andarmene. Ci ero già stato centinaia di anni prima, ma lo avevo dimenticato. Ed ecco che ora tutto ritornava in me. Trovavo nella piazza l'ostentazione della densità, del calore della vita che sento in me stesso. Mentre mi trovavo lì, io ero quella piazza. Credo di essere sempre quella piazza. Separarmi da essa mi riusciva talmente penoso che vi facevo ritorno ogni 5 o 10 minuti. Dovunque io andassi, proseguendo il mio cammino, qualunque altra cosa mi capitasse di scoprire nella Mellà, la interrompevo di continuo per tornare nella piccola piazza, attraversarla in questa o in quella direzione, accertarmi che fosse ancora lì. Sulle prime piegai in un vicolo tra i più silenziosi, nel quale non c'erano botteghe, ma solo abitazioni. su tutti i muri vicino alle porte, ad una certa altezza dal suolo. Erano dipinte delle grandi mani, per lo più in azzurro, con le dita dai contorni nitidissimi. Servivano da difesa contro il malocchio. Fu questa l'immagine che vidi qui più spesso. Alla gente piaceva dipingerla soprattutto sul muro della propria casa. Attraverso le porte aperte potevo dare un'occhiata dentro ai cortili, che erano più puliti delle strade. Il senso di pace che da essi emanava fluiva fino a me. Sarei entrato molto volentieri, ma non vedevo nessuno e perciò non osavo. Non sapevo davvero che cosa avrei potuto dire se in una di quelle case all'improvviso mi fossi imbattuto in una donna. Mi spaventai all'idea di spaventare qualcuno. Il silenzio di quelle case mi coinvolgeva, ispirandomi una sorta di cautela, ma il silenzio non durò a lungo. Un rumore sottile, acuto, che all'inizio sembrò un canto di grilli, si intensificò a poco, fino a quando pensai a una voliera di uccelli. Che cosa sarà mai? Qui non c'è mica una voliera con centinaia di uccelli. Saranno dei bambini, una scuola. Di lì a breve i dubbi svanirono. Quel rumore assordante veniva da una scuola. Attraverso un portone aperto guardai in un grande cortile. Vi erano seduti moltissimi minuscoli bambini. Saranno stati 200, pigiati l'uno contro l'altro. Alcuni correvano qua e là o giocavano per terra. Quasi tutti sulle panche tenevano in mano il sillabario. In piccoli gruppi di 3 o 4 bambini si dondolavano violentemente avanti e indietro e intanto recitavano a voce alta Aleph, Bet, Gimel. Le piccole teste nere si spingevano ritmicamente su e giù. In ogni gruppo ce n'era uno più zelante degli altri. I suoi movimenti erano più impetuosi e dalla sua bocca i suoni dell'alfabeto ebraico risuonavano come un nuovo decalogo. Entrato nel cortile, mi sforzai di distinguere le varie attività di tutti quei bambini. I più piccoli giocavano per terra. C'era un maestro tra loro, molto poveramente vestito. Nella mano destra teneva una cinghia di cuoio per batterli. Si avvicinò a me tutto ossequioso. Aveva un lungo viso, scialbo e inespressivo, e la sua rigidità senza vita era in stridente contrasto con la vivacità dei bambini. Sembrava che non sarebbe mai riuscito a tenerli in pugno, che per questo fosse troppo mal pagato. Era un uomo giovane, eppure la loro giovinezza lo rendeva vecchio. Non sapeva una parola di francese, e io da lui non mi aspettavo niente. Ero contento di poter stare lì, in mezzo a quel chiasso assordante, e di potermi guardare un po' intorno, ma lo avevo sottovalutato. Dietro quella sua cadaverica rigidità si celava qualcosa che somigliava all'ambizione. Volle mostrarmi quel che sapevano fare i suoi bambini. Chiamò vicino a sé un ragazzino e, mettendogli sotto gli occhi una pagina del sillabario in modo che anch'io potessi guardarla, prese ad indicare rapidamente una dietro l'altra le sillabe ebraiche. Passava da una riga all'altra, percorrendo la pagina in lungo e in largo. Non voleva che pensassi che il bambino avesse imparato la lezione a memoria e recitasse alla cieca, senza leggere. Gli occhi del piccolo sfavillavano mentre leggeva ad alta voce. La lo manusti babu. Non fece un solo errore e non si impappinò mai. Era l'orgoglio del suo maestro e lesse ancora, sempre più spedito. Quando ebbe terminato e il maestro gli tolse il sillabario, io gli accarezzai la testa e lo lodai in francese. Lui questa volta capì benissimo. Tornò al suo banco e si comportò come se neanche mi vedesse più. Poi venne il turno di un altro ragazzino, che fu molto più timido e fece degli errori. Il maestro lo congedò con un leggero scappellotto e chiamò a sé ancora un paio di bambini. Per l'intera durata di questa operazione, lo strepito non accennò a diminuire Le sillabe ebraiche cadevano come gocce di pioggia nel mare in tempesta di quella scuola. Nel frattempo, altri bambini mi si erano avvicinati guardandomi curiosi. Alcuni con insolenza, altri con timidezza, altri ancora con civetteria. Il maestro, per una sua imperscrutabile decisione, scacciò con durezza i timidi e gli insolenti invece li lasciò fare. Ogni cosa aveva il suo significato. Egli era il povero e triste signore di quella parte della scuola. E quando la dimostrazione terminò, scomparvero dal suo volto le avare tracce dell'orgoglio appagato. Ringraziai molto cortesemente e, per dargli importanza, con un tono di lieve degnazione, come se fossi un visitatore influente. La mia contentezza era innegabile. Nella mia mancanza di tatto, che mi aveva perseguitato ovunque nella Mellà, decisi di tornare il giorno dopo e di dargli allora soltanto un po' di denaro. Osservai per un attimo ancora i ragazzini che stavano sillabando, il loro dondolarsi avanti e indietro mi aveva incantato. Quei bambini mi piacevano più di ogni altra cosa. Poi me ne andai, ma il chiasso me lo portai dietro per un bel po'. Mi accompagnò fino in fondo alla strada. Questa adesso si era fatta più animata, come se portasse a un luogo pubblico importante. A una certa distanza da me, vidi un muro e un grande portone. Non sapevo dove conducesse, e però man mano che mi avvicinavo, mi imbattevo con sempre maggiore frequenza in mendicanti seduti a destra e a sinistra, sul ciglio della strada. Mi meravigliai della loro presenza, perché ancora non avevo visto dei mendicanti ebrei. Arrivato nei pressi del portone, vidi 10 o 15 di essi, rannicchiati in fila, uomini e donne, per lo più vecchi. Provai un certo imbarazzo a star lì in silenzio in mezzo alla strada, e così feci finta di studiare il portone, mentre in realtà osservavo i volti dei mendicanti. Un giovane mi si avvicinò di lato, indicò il muro e disse: «Le cimetière israelite», offrendosi di accompagnarmi dentro. Furono le sue uniche parole in francese. Io lo seguii prontamente, varcando il portone. Era un ragazzo svelto e non c'era niente da dire. Mi trovai in una piazza enorme e spoglia. Non vi cresceva un filo d'erba. Le pietre tombali erano talmente basse che quasi non si vedevano, e camminando capitava di urtarle come se fossero pietre qualsiasi. Il cimitero appariva come un gigantesco mucchio di macerie. Forse lo era stato, e solo più tardi era stato adibito a questa più solenne destinazione. Niente nella piazza si ergeva in altezza. Le pietre che si potevano vedere e le ossa alle quali si pensava, tutto giaceva supino. Qui camminare in posizione retta non era piacevole. Non c'era niente di cui essere fieri. Ci si sentiva soltanto ridicoli.